Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Stadio Olimpico, Roma, 30 maggio 1984. Va in scena la partita più importante dell'anno, la finale della Coppa dei Campioni. La prima delle due contendenti è una squadra inglese, il Liverpool, tra le squadre più forti al mondo. I Reds, come sono soprannominati gli inglesi per via della divisa interamente rossa, possono schierare campioni come Ian Rush, Kenny Dalglish e Graeme Souness. Hanno già vinto la Coppa per 3 volte, tutte negli ultimi 7 anni, a dimostrazione di un'egemonia assoluta in Europa. Di fronte però il Liverpool ha uno scoglio enorme. Davanti al Liverpool c'è un ostacolo tutt'altro che agevole. Il caso ha voluto che in finale arrivasse la squadra della città che ospita la finale. A contendersi il titolo con il Liverpool c'è infatti la Roma, allenata da Nils Liedholm. Gli anni Ottanta sono il decennio in cui il calcio italiano si prende un ruolo di supremazia quasi planetaria, che abbandonerà solo negli anni 2000. Lo fa attraverso la nazionale, con il Mundial spagnolo vinto da Berzot e dai suoi azzurri. Lo fa soprattutto con le squadre di club. Sono due in particolare quelle che ingaggiano i duelli più accesi in Italia e che ben si comportano poi anche in Europa. La Juventus e appunto la Roma, che si affaccia alle ribalte internazionali negli anni Ottanta praticamente per la prima volta. La Roma è, dopo l'Inter e insieme alla Juventus, la squadra ad avere partecipato al maggior numero di campionati di Serie A, 79 su 80. Per un solo anno è stata in B, nel 1951-1952. Il primo scudetto arriva nel 1941-1942, poi un lungo digiuno. La squadra giallorossa è relativamente giovane per la nostra massima serie. Fondata nel 1927, il 22 luglio 1927, in via Uffici del Vicario al numero 35, grazie alla fusione di 3 società, Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma. Come colori vengono scelti il giallo e il rosso scuro, i colori del gonfalone cittadino. L'unico trionfo europeo della storia giallorossa fino agli anni Ottanta è la Coppa delle Fiere del 1960-1961. Seguono decenni altalenanti, fino a quando, nel 1979, la società viene rilevata da un imprenditore ambizioso che saprà rinnovarla e portarla ai vertici del calcio europeo. Il battaglie non fa che tante, a noi tutti ci hanno invidiato, a noi tutti ci hanno applaudito, dai ragazzi diamo la scossa. Seduto in tribuna quella sera, il 30 maggio 1984 all'Olimpico, seduto c'è il deus ex machina di questa entusiasmante impresa. L'uomo che, investendo ingenti capitali e con grande passione, ha portato i giallorossi tra le più forti squadre al mondo. Dino Viola, imprenditore toscano trapiantato a Roma, ha costruito una squadra eccezionale e irripetibile, destinata ad aggiudicarsi uno scudetto, a giungere 3 volte seconda, a vincere 5 Coppe Italia, a raggiungere una finale di Coppa UEFA. Il match contro il Liverpool potrebbe essere la definitiva consacrazione del suo progetto. Nella Roma magica, in quegli anni più che mai, militano tanti campioni. Come sempre accade, ce ne sono 2 in particolare che hanno fatto la storia di quel club. 2 campioni così diversi e così complementari che fu proprio il loro destino incrociato a rendere eccezionale quella squadra. Il primo è considerato da tutti l'ottavo re di Roma. Testa alta, passo compassato, ma visione di gioco straordinaria, è il regista dei giallorossi, nonché uno dei più forti centrocampisti al mondo. Paolo Roberto Falcao. Paolo Roberto Falcao. C'è un aneddoto che rende bene la grandezza di Paolo Roberto Falcao, il grande leader della Roma nei primi anni Ottanta. Un aneddoto molto più recente. 16 maggio 1999, Roma, Foro Italico, Internazionali d'Italia di tennis. Il brasiliano Guga Kirti, idolo del pubblico, polverizza Pat Rafter. Mentre alza la coppa, Guga viene intervistato. «Sei l'ottavo re di Roma?» chiede l'intervistatore riferendosi al grande affetto del pubblico italiano. Non esageriamo, quello è e sarà sempre Falcao. Segue ovviamente il boato della folla romana. Paolo Roberto Falcao è nato a Chanchere, vicino a Santa Caterina, in Brasile, il 16 ottobre 1953. La sua è una famiglia molto modesta. Ho vissuto la povertà, l'esperienza della povertà. Anche se può sembrare strano, è stata una cosa bellissima, perché mi ha insegnato a dare il giusto valore alle cose. La fame no, almeno non nel vero senso della parola. Ho vissuto momenti di povertà vera, ma non l'ho mai accettata passivamente. Qualche volta, quando ero ancora un dilettante, ero costretto a vendere vuoti di bottiglia per procurarmi i soldi dell'autobus e per poter partecipare agli allenamenti. Ma anche queste esperienze mi sono servite per conoscere la vita e le sue difficoltà. Quando ha solo 2 anni, la sua famiglia si trasferisce nello stato di Rio Grande do Sul, la terra di Garibaldi, per intenderci, quella per la cui indipendenza l'eroe dei due mondi aveva combattuto contro il Brasile centralista tra gli anni 30 e i 40 del 1800. Come dire, una piccola premonizione che l'Italia sarebbe stata nel suo destino. Qui Paolo Roberto mostra sin da piccolo il suo talento per il calcio. Dopo una trafila nemmeno troppo lunga in squadre minori, entra nelle giovanili dell'Internazionale di Porto Alegre. Giocavo in una squadra di ragazzi. Mi piaceva molto giocare a calcio. Per questo un giorno sono andato a fare un provino nell'Internazionale. Di là ho cominciato tutta la trafila. Escoligna, infanto giovanile, poi professionale, la prima squadra, insomma... Falcao inizia come mezzala. Ha attitudini offensive, grande eleganza nei movimenti, sente come pochi il ritmo del gioco che riesce a padroneggiare e a scandire a suo piacimento. Uno dei tanti allenatori che lo forma nelle giovanili dell'Internazionale ha l'intuizione di spostarlo in una posizione più arretrata, che sia però il centro e il fulcro del gioco. Giocavo titolare nell'Infanto Giovanile con un allenatore che si chiamava D'Ernesto Gaides. Ricordo che mi fece giocare in un ruolo non mio. Io avevo sempre giocato mezzala e lui mi fece giocare come mediano di spinta davanti alla difesa. Sempre in quel ruolo sono passato allora nella primavera e nella prima squadra richiesto dall'allenatore Dino Sani. Avrei dovuto fare un altro anno in primavera, invece Sani mi ha voluto con sé. Lui era stato un grande mediano e ho imparato un sacco da lui. Davanti alla difesa, Paolo Roberto Falcao dà il meglio di sé e diventa grande. È un brasiliano atipico. Il calciatore carioca abitualmente ricopre il ruolo del funambolo. Falcao no, ha ottime doti di palleggio, ma odia la giocata fine a se stessa. Ama interrompere le trame avversarie e impostare il gioco a centrocampo. Il suo ruolo è quello dell'allenatore in campo, del direttore d'orchestra, che detta i tempi dello spartito. Merce rara per il football brasileiro. Falcao esordisce in prima squadra nel 1976. Rimane all'Internazionale per 5 stagioni, diventando il faro del centrocampo e il leader assoluto della squadra. Con i brasiliani vince 5 volte il campionato e per 2 volte viene eletto miglior giocatore del torneo. Giocatore di grandissimo temperamento, viene convocato in nazionale, con cui parteciperà alla Copa America del 1980, dopo aver rifiutato la convocazione ai mondiali del 1978 per dissidi con l'allenatore del Brasile. Proprio nel 1980 la Roma di Dino Viola va alla ricerca di un grande giocatore che possa far fare il salto di qualità definitivo ai giallorossi. Il presidente non ha dubbi, deve essere brasiliano e infiammare con le sue giocate il pubblico dell'Olimpico. Il primo e unico nome sul taccuino del presidente e dei suoi collaboratori è però quello di Zico, straordinario trequartista del Vasco da Gama, uno dei più celebrati numeri 10 a livello mondiale. La tifoseria già sogna. Completamente perigoso, João Leite saiu. Olha a sobra, Júnior. Carimbou para a linha. Júnior. Agora. Succede però che dopo un inizio in discesa la trattativa si complichi. Dopo diversi tentativi il grande Zico alla fine non arriva. Viola vuole comunque il suo campione brasiliano. Così un giornalista romano, Ezio De Cesari, del Corriere dello Sport, gli dà una dritta. Concentrare le proprie energie su Falcao, il brasiliano atipico, per affidargli le chiavi del motore della sua Roma. Non avrà la stessa notorietà e lo stesso impatto mediatico di Zico, ma assicura De Cesari, potrà essere ancora più utile alla causa del centrocampo romanista. Falcao viene acquistato dalla Roma il 10 agosto 1980. Ad attenderlo a Fiumicino ci sono 5.000 tifosi che, nonostante il mancato arrivo di Zico, gli fanno sentire il proprio affetto. Sicuramente non era per Falcao, perché mi conoscevo un poco. Era per una speranza, sicuramente. Era per qualcuno che stava arrivando a Roma con la speranza di che le cose potevano andare meglio. Dall'uscita dell'aeroporto i tifosi vedono arrivare un giocatore insolito anche nell'aspetto. Elegantissimo, negli abiti e nei movimenti, forbito, colto. Di lui sanno anche che studia all'università. La tifoseria lo adotta subito, anche se probabilmente nessuno di loro l'ha mai visto giocare. Ora attendono, naturalmente, la prova del campo. Fautore del bel calcio e del gioco a zona, ex centrocampista del Milan degli anni 50 e primi 60, Lidl capisce subito l'importanza che uno smistatore di gioco come Falcao potrebbe avere. Ma capisce anche un dettaglio fondamentale. Il brasiliano è un giocatore fondamentalmente statico. Per sfruttare al meglio le sue doti, Lidl decide di investire su un giovane giocatore che invece fa del dinamismo e della velocità le sue doti più importanti. È un'ala destra. Ruolo perfetto per beneficiare dei traversoni, dei lanci e dei cambi di gioco di Falcao. Il suo nome è Bruno Conti. Bruno Conti. Classe 1955, mancino, brevilineo, 169 cm per 65 kg, soprattutto romano, o quasi, dato che viene da Nettuno. Questi i segni particolari di quella che diventerà la bandiera Conti. Nettuno, negli anni 70, era considerata la città del baseball, dato che proprio qui ha sede uno dei più titolati club italiani di questo sport che nel nostro paese non ha mai attecchito. Non a caso Conti, quando è molto giovane, si cimenta anche con il baseball e grazie alla sua rapidità rischia di eccellere in quella disciplina. Per fortuna sua e nostra gioca anche a calcio, nel Nettuno prima e nel Lazio poi, da dove nel 1972 giunge alla Roma. Tutti mi dicevano che tecnicamente ero bravo, ma fisicamente non potevo giocare al calcio. Però a me non interessava nulla, perché io avevo sempre il baseball estate, per cui non mi buttavo mai giù. Non dimentico quando a me venne una squadra americana, mi voleva portare a giocare il Santa Monica in America, mi hanno visto giocare, mio padre li mandò via perché ancora eravamo piccoli. Bruno Conti è un'ala destra, un ruolo ormai in via di estinzione. Il calcio moderno, con le sue esasperazioni tattiche, non prevede quasi più l'inserimento di un centrocampista spiccatamente offensivo che aveva il compito più gradito ai tifosi, il dribbling. Scattare, dribblare, crossare, inventare. Quello dell'ala è un ruolo affascinante e Bruno Conti sembra poterne diventare un interprete straordinario. Alla destra si nasce, perché tutto sommato quando si hanno doti tecniche e soprattutto spirito di sacrificio, le ali destre prima facevano questo. A Roma Conti rimane due stagioni, convincendo poco anche a causa degli infortuni. Ritorna al Genoa nel 1978 per un'altra stagione di recupero. Il ritorno definitivo a Roma avviene nel 1979. Nel 1980 Lidl punta tutto su di lui, sa che deve esplodere, che a 24 anni è giunto il momento e che il piede delicato di Falcao è il giusto propulsore per le sue incursioni sulla fascia. Sta per nascere la grande Roma. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Quanto sei bella Roma quando piove. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia della grande Roma dei primi anni Ottanta. Siamo partiti dal gran finale, la vigilia della finale di Coppa Campioni del 1984 contro il Liverpool, il massimo traguardo per un club europeo. I principali interpreti di questa scalata sono due straordinari giocatori il cui talento è sorprendentemente complementare: Paolo Roberto Falcao e Bruno Conti. I grandi successi della Roma dei primi anni Ottanta sono legati soprattutto alla compresenza di questi due giocatori. La prima stagione insieme è nel 1980 e sono subito scintille. In realtà Falcao qualche problemino di ambientamento per le prime settimane ce l'ha. tutto il pianeta Roma sembra scettico nei suoi confronti. Si dice che il suo compagno di squadra, Luciano Spinosi, vedendolo al campo d'allenamento così magro ed emaciato, abbia detto ironico: «Dategli un piatto di pasta asciutta, che questo non si regge in piedi». E non è l'unico episodio di diffidenza. Arrivo lì, come va? Tutto bene? C'era un giocatore che mi ha detto: «Sì, tutto bene, perché adesso ancora meglio», mi dice lui. Perché abbiamo un giocatore che arriva straniero in cui possiamo giocare la responsabilità se le cose non succedono. Dico bene, dillo a lui, a questo signore, che comincia a capire perché la Roma non vince il campionato da più di 40 anni. Perché ha giocatori che pensano come lui. Così bota a risposta, no? Senza alzare la testa troppo, ma senza abbassare molto. Normale. Le prime uscite non sono brillanti. Si dice che prima di una delle gare di campionato, il presidente Viola, preoccupato dall'insoddisfazione dei tifosi, sia sceso negli spogliatoi chiedendogli un favore. I tifosi, da un brasiliano, si aspettano un numero a sensazione, una giocata che qui non vedono. Mi accontenti per una volta. Negli ultimi minuti di quella gara, Falcao, dopo aver indicato la tribuna, come a dire «questa è per te», prende il pallone, lo alza di tacco facendolo passare sulla testa di un avversario e calcia al volo di sinistro sfiorando il palo. Per questa volta l'ho accontentata, presidente, ma non me lo chieda mai più. Questi sono numeri da foca ammaestrata. È la prima grande dimostrazione di personalità. L'ambiente giallorosso ci mette un po' a capire la grandezza di Falcao, il tempo di cancellare l'aspettativa di un giocoliere funambolico. Il primo a capirne la grandezza è il suo allenatore, Nils Liedholm. Lui dice: Paolo ha preso 3 palloni, lui deve prendere 400, perché è un giocatore di centrocampo, la palla deve passare da lui. E lo dicevo, puoi tenere la palla di più se vuoi, quando aspetti il momento giusto lo dai. E così, dopo un po' di tempo, hanno cominciato a scoprire Falcao, grandissimo giocatore, salva sulla porta e va a fare il gol, o di testa, o di piedi, o nel dribbling, e questo è stato. I compagni iniziano a credere in lui e Paolo diventa il leader. Quando un giocatore della Roma non sa a chi passare la palla, cerca Falcao. Quando la Roma inizia un'azione, prende palla Falcao. Quando la Roma difende, Falcao dà ordini e disposizioni ai compagni. Diventa il cervello della squadra, come riconosce uno dei suoi compagni di allora, Ciccio Graziani. Io scherzando qualche volta ti dicevo, ho l'impressione che tu qualche volta abbia anche gli occhi di dietro, perché prima ancora che gli arrivava la palla lui sapeva già lo spostamento del compagno e quindi sapeva già la gioca. Lui giocava spessissimo di prima. In ottobre la Roma è sola in testa alla classifica. Il brasiliano le ha cambiato mentalità, rendendola una squadra coraggiosa e compatta. Se Falcao però è la mente della squadra, il braccio armato è sicuramente Bruno Conti. Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Il talento di Bruno Conti, ala giallorossa, esplode in tutto il suo splendore. I suoi dribbling, le sue finte, fanno ammattire le difese sulle precise imbeccate di Falcao. Conti si inserisce negli spazi e diventa imprendibile. Il centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, si esalta proprio grazie alle eccezionali giocate di Falcao e Conti. È quello che ti mette poi nelle condizioni di poter diventare importante, perché senza l'ala e senza un tipo di giocatore così il lavoro diventa difficile. La Roma diventa grande grazie a questo curioso paradosso. In mezzo al campo, il meno brasiliano dei brasiliani. Come alla destra, un italiano che a tutti sembra funambolico come un brasiliano vero, per le sue straordinarie finte. E alla destra si nasce, perché tutto sommato, quando si hanno doti tecniche e soprattutto spirito di sacrificio, le ali destre prima facevano questo. Io sapevo che più o meno dopo la terza finta, tre erano più o meno d'obbligo, la terza, quarta finta il gioco andava, insomma, per cui io non avevo più bisogno di sapere se lui dribblava un uomo, se lo ritriblava, se lo aspettava. Sapevo che il momento buono era quello. Sta di fatto che grazie a questi straordinari giocatori, la piccola Roma della fine degli anni 70 si trasforma in una corazzata che fa davvero paura, in grado di rifilare 4 gol all'Inter a San Siro. Nella prima stagione degli anni 80, la Roma si contende lo scudetto con la Juventus per tutto l'anno, tanto che diventa decisivo lo scontro scudetto con i bianconeri all'Olimpico di Torino, a 3 giornate dalla fine. I tifosi sono in fibrillazione, non sono abituati a gestire la tensione di uno scontro diretto. I giocatori vengono rassicurati da Lidlm e da Falcao. La Roma va a Torino per vincere. Dopo soli 14 secondi però, un intervento intimidatorio, killer, di Beppe Furino, stende il brasiliano. Mi sono sentito male qua, perché non puoi, 14 secondi non è una cosa che succede al momento, è una cosa che viene dallo spogliatoio, no? Ovviamente, non è una cosa che succede al caso. Falcao rimane in campo da grande lottatore, ma non è al meglio. La partita si trasforma in una rissa, con calci, pugni. Furino viene espulso, la Juve rimane in 10, ma la Roma deve vincere. E teoricamente lo fa con uno degli episodi più controversi della storia recente del nostro calcio. Porusso salta di testa nella spalla di Gentili, lui colpisce di testa a me, io arrivo, non riesco a arrivare, vuol dire che stavo indietro alla linea del pallone, che vuol dire che io non ero in fuori gioco io. A un certo punto entra Ramon Turone, che era, bisogna dire bene, lui era difensore, non poteva essere già lì, perché era un difensore, veniva lui perché era una giocata di contropiede e si butta di tuffo e fa un gol. La rete, segnata dal difensore argentino Turone, viene inspiegabilmente annullata per un fuorigioco inesistente. L'azione confezionata dal tandem Falcao-Conti viene conclusa, dopo la sponda di Pruzzo, da un uomo che arriva chiaramente da dietro, in corsa, in posizione regolare, ma l'arbitro annulla. Nessuno mai ha detto il fuorigioco di chi era. Non sono sentito mai dire o del Guadalinha o dell'arbitro, di chi che era, che poi l'arbitro era Paolo Bergo, il Guadalinha non mi ricordo, di chi era il fuori gioco. La Juve era avanti di un punto e rimane avanti, vincendo lo scudetto. La Roma si sente depredata, derubata, ma è solo il primo tassello di una sfida calcistica destinata ad infiammare gli anni Ottanta. La seconda stagione di Falcao e Conti insieme alla Roma è molto problematica. Infortuni per il brasiliano, rendimento altalenante per l'ala. La Roma arriva solo terza. I due però si ritroveranno al Mondiale spagnolo. Il destino a volte segue vie beffarde e drammatiche. Il brasiliano più europeo e l'europeo più brasiliano, compagni di squadra, compagni di Roma, si ritrovano uno contro l'altro nel match decisivo dei quarti di finale. Italia-Brasile. Ecco la formazione italiana: Goff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Il Brasile 82 è una squadra che giocava, vinceva e dava spettacolo. Falcao ha intorno a sé colleghi di reparto incredibili. Zico, Junior e Socrates giostrano intorno alla regia di Falcao, determinato a portarsi a casa la Coppa. Il 5 luglio del 1982, tutta l'Italia, e Roma in particolare, si fermano per guardare una partita che ha un sapore tutto speciale. Vai avanti Cabrini! Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Un match in cui i brasiliani partivano super favoriti. Hanno vinto tutte le partite del girone, realizzando 10 gol in 3 gare. L'Italia si è qualificata pareggiandole tutte e 3. Non ci dovrebbe essere partita. Ma il vero brasiliano in campo quel giorno è Bruno Conti, che fa ammattire la difesa carioca trafitta per 3 volte da Pablito Rossi. L'Italia va in vantaggio, il Brasile pareggia subito. L'Italia torna in vantaggio e così Paolo Roberto Falcao prende in mano i carioca, gioca da mezza punta quasi con disperazione e cerca il pareggio che qualificherebbe il Brasile. C'era davanti a me Tardelli, se non mi sbaglio, Scirea e c'era Cabrini. Se Cerezo non passa, non succede niente. Lì è stato un sbaglio della difesa italiana. Questo stava con me. È andato nella finta di Cerezo. È andato lui, è andato il secondo e il terzo. quando ero già, quando cominciavo dai primi calcio, io preferivo sempre giocare con la sinistra. Boa abertura, Falcão, Cerezo passou para receber. L'epoca di Rivellino, Joe Verratti nella Germania, dei giocatori che giocavano bene col sinistro, forse per questo. La gioia di Falcao esplode incontenibile, ma non basta. Da un corner di Conti nasce il gol della vittoria definitiva di Paolo Rossi. Dalla bandierina Conti. L'Italia vince 3-2. Il Brasile di Falcao è fuori proprio per mano dell'Italia di Bruno Conti e di Paolo Rossi. Gli azzurri si laureeranno campioni del mondo e i due si ritroveranno di lì a qualche settimana insieme di nuovo per fare grande la Roma. Destini incrociati. Paolo Roberto Falcao e Bruno Conti. L'ottavo re di Roma, il primo, Marasico il secondo. Un soprannome sudamericano che gli viene affibbiato dopo il trionfale mondiale spagnolo in cui Conti e l'Italia battono sia il Brasile di Zico sia l'Argentina di Maradona. Dopo il Mundial del 1982, che li ha visti uno davanti all'altro, i due si ritrovano compagni di squadra e decidono che è il momento di riportare a Roma il tricolore. Però lì avevo capito che il lavoro da fare con la squadra era molto più sul piano della, di far capire che era una squadra che si poteva giocare meglio, che si poteva credere di più nei giocatori. Era più un lavoro di spogliatoio che un lavoro sul piano. I due spronano i compagni e prendono in mano la squadra. Falcao infonde la sua personalità a tutto il gruppo. La Roma non ha più paura di niente e inizia nella stagione 1982-83 una cavalcata memorabile. Il 6 marzo 1983 la Roma gioca lo scontro diretto con la Juve. A 5 punti di vantaggio, una vittoria chiuderebbe il match. Lidl e Falcao escogitano un trucco tattico: far giocare il brasiliano centroavanti. E da centroavanti Falcao incorna un cross di Bruno Conti. È l'1-0. A pareggiare il conto però arriva la punizione di Platini e nel finale Brio segna in sospetto fuorigioco il gol vittoria. Tra le polemiche il campionato è riaperto. Quando però tutto l'ambiente romanista trema, Falcao si comporta da leader. In un mondo del calcio diverso da oggi, molto meno mediatico e forse nell'ultima epoca intrisa di romanticismo, il brasiliano va in TV, ospite di una trasmissione Rai, e carica l'ambiente da par suo, attaccando la Juve e affermando che lo scudetto sarà giallo-rosso. Paolo Roberto Falcao, 29 anni, brasiliano. Io sono 3 anni qui in Italia e non ho visto 2 sbagli, cioè il gol di Turoni e questo gol di Brio. 2 sbagli particolari però. 2 sbagli particolari che poteva decidere il campionato. Un messaggio di guarda il scudetto, lo vinciamo. Questo fatto che la Juve crede nello scudetto provocherà qualcosa? No? La Roma crede ancora di più. Siamo 3 punti davanti, secondo me sono abbastanza per vincere. Fino alla fine del campionato, lui e Falcao sono inarrestabili. A 2 giornate dalla fine, la Roma si laurea campione d'Italia per la seconda volta e può esplodere la festa. Una festa fantastica, no? Perché era una cosa... Vincere a Roma non è una cosa facile. Stagione 1983-1984. La Roma inizia la sua campagna d'Europa. La Coppa dei Campioni diventa il primo obiettivo per i giallorossi. Mentre Falcao diventa progressivamente da leader carismatico a icona degli anni Ottanta, invischiato in vicende da paparazzi, Conti trascina la Roma nella massima competizione europea. La partita più complessa è la semifinale contro il Dundee United. La Roma perde in Scozia 2-0 senza Falcao. Al ritorno il brasiliano gioca con un'infiltrazione al ginocchio, non è al massimo, ma la Roma vince. Giocherà la finale con il Liverpool, il momento più importante della sua storia. Una sera indimenticabile per una città intera. La parabola della Roma di Falcao e Conti è al suo passaggio più importante. Il brasiliano non è al 100%, ha un ginocchio dolente e qualche preoccupazione sul suo contratto. Bruno è invece più che carico. La Roma però è tesa. Nel sottopassaggio c'era loro che ridevano, Liverpool, perché guardava la gente, perché era una squadra molto... Io guardavo i giocatori, due o tre, che erano un po' preoccupati, guardavano loro. Io ho cercato di drammatizzare, no? Perché loro, di una parte, Liverpool, che sembrava siamo i migliori, però anche se perdiamo non è un problema. Cioè era una squadra completamente piena di se stessa, nel senso di riconoscere la forza loro. In effetti i Reds non hanno nulla da perdere. Sono abituati a questi palcoscenici e un'eventuale sconfitta brucierebbe ma non sminuirebbe il loro valore. Per la Roma invece è un passaggio determinante. In campo però si vede che qualcosa non va. La squadra è contratta, lenta. Il Liverpool appare più fluido. Bonetti porta vuota e c'è il tocco di Mill che porta in vantaggio. Una mischia, un gol quasi ridicolo. È il vantaggio del Liverpool. Falcao non brilla per i suoi problemi al ginocchio. Conti invece prova a ribellarsi alla forza del Liverpool. Sulla sinistra Conti prova i suoi dribbling funambolici e scodella al centro. Pruzzo insacca con un capolavoro. È il pareggio. Traversone può effettuarlo nuovamente col destro. E c'è il colpo di testa vincente da parte di Pruzzo. Inspiegabilmente però dopo questo pareggio, presto, quindi troppo presto, la favola della grande Roma svanisce. Ci sarebbe ancora tutta una partita da giocare. Invece la Roma sparisce dal campo. Spariscono Falcao e Conti, sparisce il pubblico, i tifosi, regna il terrore. Il Liverpool si adegua, il match finisce 1-1 e si va ai rigori. La squadra più terrorizzata non parte però certo favorita. Il terrore aumenta quando Falcao annuncia che non se la sente di battere uno dei 5 rigori. Lui, il leader di quella squadra, non se la sente. Più di un presagio. E infatti... Ai. Sbaglia Bruno Conti. Bruno Conti, l'altro idolo dei tifosi, calcia alto. Poco dopo arriva la fine. E il Liverpool conquista la sua quarta Coppa dei Campioni. I Reds festeggiano, la città è in ginocchio e si sente tradita. Conti ha sbagliato, ma si è esposto. Falcao no. I tifosi sono feriti. L'amore con la sua gente è finito così, di colpo. Anche il grande campione, quando deve tirare un rigore decisivo, torna ad essere un uomo comune, solo con i suoi pensieri e gli occhi di milioni di spettatori e telespettatori addosso. Falcao, probabilmente, ha avuto paura di sbagliare. Conti ha sbagliato. La Roma dovrà aspettare quasi 20 anni per tornare grande in Italia come in quegli anni. Gli anni di quel brasiliano che sembrava europeo e di quel piccolo italiano che sembrava un brasiliano. falling on my skin. I hear the voices of young kids, they